Administrator, medium is ready to check in. Ed eccoci di nuovo a Medium, il podcast su Netrunner. Io sono Federico Latini e oggi facciamo un piccolo esperimento perché sono in macchina in questo momento, sto guidando, ho gli auricolari attaccati e il microfono speriamo che riesca a rendere un buon audio e sto in questo momento andando al Circle Evolution a fare il torneo di Netrunner. Allora, oggi parlo di come mi sono preparato ieri sera, purtroppo solo ieri sera. Nell'arco di questi giorni ho giocato un mazzo su Octagon principalmente, poco dal vivo, ho giocato un mazzo Noise Mill. Ha sicuramente guadagnato moltissimo grazie a Cash, ma a mio parere non riesce comunque a generare quella mole di quantità di carte ciclate dall'R&D negli archivi tale per cui è impossibile resisterli e quindi anche Jackson Howard e le varie cose che ti possono far riprendere carte dagli archivi come per esempio Project Vitruvius e le varie carte di HB che ti ripescano carte dagli archivi riescono a contenere il mazzo, quindi sicuramente il mazzo teme molto chi gioca Jackson Howard, ovvero tutti, e in particolare HB che ha ulteriori strumenti di ripresa delle carte dagli archivi. Che cosa ho fatto quindi? Devo trovare un modo per evitare che Jackson Howard sia un problema. La risposta è Aden Shard, cioè una risorsa che costa 7 che nel momento in cui viene sacrificata, quindi dopo che è in gioco, nel momento in cui viene sacrificata, accedi agli archivi senza dover fare la run, quindi fai istantaneamente un accesso agli archivi. Chiaramente cosa succede? Che non la puoi far vedere all'avversario, perché nel momento in cui l'avversario vede Hades Shard automaticamente sa che deve usare i suoi Jackson Howard, perché altrimenti non avrà una finestra di azione per poter attivare i Jackson Howard nel caso io giocassi dalla mano, quindi pagandola la Hades Shard per poterla poi sacrificare, perché la finestra che si crea dà la priorità al runner, quindi io la gioco, si crea una finestra per giocare gli effetti, quelle che si chiamano le paid ability, e in priorità ci sono io, quindi io prima risolvo il mio effetto di Hades Shard, cioè accedo agli archivi, e poi Jackson Howard ha modo di risolvere il proprio effetto. Quindi ecco, la mia scelta è stata quella di includere Hades Shard e di puntare molto su, non sul fare tante run sugli archivi, perché alla prima run sugli archivi chiaramente mi si attiva Jackson Howard e quindi non Hades Shard poi non fa più il suo effetto. Quindi il mio obiettivo sarà quello di millare più possibile, quindi macinare più possibile carte dall'R&D verso archivi e poi tentare il colpaccio proprio facendo affidamento sul fatto che le persone dicono vabbè, ho Jackson Howard giù, quindi posso scartare eventualmente anche delle agende, o comunque posso tenere delle agende che mi hai scartato tu senza problemi, perché tanto poi me le rimescono con Jackson Howard, e questo invece non potrà succedere. L'unico problema è che molto spesso trovo delle NAFT che quindi sono molto costose da scorare, e un altro problema chiaramente è il fatto che non ho la più pallida idea se ci sono delle agende oppure non negli archivi, perché non ho modo di verificarlo, posso solamente affidarmi a una statistica, ovvero ti ho millato X carte e quindi penso che più o meno un tot di agende ci saranno. Come faccio a potenziare questo mazzo? Ho deciso di utilizzare la carta Mass Install per recuperare i click che perdo con i Whiteside, e per potenziare anche un pescatore molto potente che è Quality Time, che gioco in due copie, in modo da essere sicuro che anche se gioco Quality Time, che ne so, e mi vado, ho pochi click, perché con Whiteside hai sempre pochi click, hai sempre 3 click a disposizione, quindi diciamo secondo click, dopo aver pescato già 2 carte, gioco un Quality Time, mi riempio la mano e quindi vado a 7, 8, 9, 10 carte in mano, e devo essere sicuro di poter in un unico click togliermi quattro carte dalla mano, e Mass Install mi consente di giocare Mass Install e giocare altre tre carte, e questo ho visto che funziona molto bene, soprattutto chiaramente quando nel Mass Install ci sono i cash, che quindi mi riportano su con i crediti dopo aver speso crediti per installare tutti questi virus. E devo dire che effettivamente la presenza di cash nel mazzo è assolutamente imprescindibile, non c'è la possibilità di poter dire il mazzo gira lo stesso se non ci sono tre cash dentro. Vediamo come va, vediamo se riuscirò a sorprendere il meta bolognese, anche se chiaramente Baralai conosce il mio mazzo, anche altri soggetti chiaramente di Bologna conoscono il mio mazzo, però il conoscerlo non necessariamente ci dà la tranquillità di dire posso vincerlo. Passiamo poi al mazzo corp. Il mazzo corp l'ho strutturato, non ci ho lavorato molto, l'unica cosa che ho fatto l'ho aggiornato dai precedenti tornei, è sempre un MBN The World is Yours Tag and Bag, ha le classiche 12 influenze spese sugli Scorched e un mazzo da 44 carte. L'ho giocato per un periodo a 40 carte. Ho visto che c'era un peletto di agenda density troppo elevato e quindi sono passato a 44 carte, visto che me lo posso permettere. Con 44 carte è un leggermente più lento, quindi la combo sale su leggermente più tardi, però ho un paio di ice in più per poter difendere la mia situazione, e soprattutto due carte fondamentali, cioè una carta in doppia copia che è Manhunt. Manhunt è la nuova operation che prima non c'era, che mi consente di lanciare una trace per affibbiare una tag, una trace 2 per affibbiare una tag a qualsiasi runner che abbia fatto una successful run, il che rende tutto più semplice, perché chiaramente è una tassa tremenda nei confronti del runner che si deve svenare per poter fare le successful run finché non gioca una current oppure non mi ruba un'agenda. Dato che l'agenda density è molto bassa, insomma risulta molto, molto efficace. Vediamo se in torneo risulterà efficace, anche perché sono molto preoccupato che ci siano molti Andromeda con i compromised employee, che effettivamente sono molto pallosi contro il mio mazzo, perché chiaramente Andromeda già c'ha uno di link. In più compromised employee, tutte le volte che rezzo un cazzo di quandary fai un casino di soldi, il runner ricco nei confronti della mia corp è un runner pericoloso, perché è un runner al quale non posso fare il classico resource scorcheder. Vediamo come andrà. Per ora passo e chiudo, probabilmente durante il torneo proverò a farvi un resoconto di come stanno andando le cose, mi rinchiudo in un stanzino e faccio un piccolo resoconto con l'obiettivo di creare una puntata di Medium che sia fatta con il prima, le prove prima, il durante e poi i commenti finali alla fine del torneo, alla luce di quello che poi è il risultato del mio piazzamento. Wow, primo turno assolutamente al cardiopalma. Giocatore avversario Alex, che porta un MBN, The World is Yours, con i mid-season replacement e gli psychographics, e vinco all'ultimissimo, cioè quando era già stato chiamato il tempo, con un multi accesso su R&D dopo aver scolato un pochettino di robe dagli archivi, dato che io avevo noise. Non è andato a segno il discorso di Eden dello Shardly, come si chiama, e la prima invece la vinco, non dico a mani basse, ma dopo un po' il suo noise si piega alla forza del mio tag and bag. Decidi di rannare, io avevo già la combo in mano e l'ho ucciso. Per ora tutto bene, il problema è che adesso incontrerò tutti quelli che hanno fatto due vittorie e vediamo che cosa portiamo a casa. Wow, che secondo turno, stanno ancora tutti quanti giocando e dopo 10 minuti abbiamo già finito. La prima la perdo clamorosamente per un errore fatto di primo turno. Guardo, vedo virus blu a costo 1, penso che sia cash, installo Grimorio e installo Cache, che non era Cache ma era Gorman Drip, e quindi rimango praticamente senza soldi con di fronte un Grindle che installava 1000 ICE e scorava la gente, delle agende dietro una fortezza inespugnabile. Tempo quarto, quinto turno mi aveva già fatto Atlas, vado a prendere lo stai takeover e lo scoro, e quindi era già arrivato a 7 punti. Mi sono però difeso con la mia simpatica corp, perché il ragazzo non si aspettava che un NBN fosse tag and bag, e quindi di primo turno mi ha rannato negli archivi con Noise dopo avermi trasciato qualcosa, e io di secondo turno gli ho fatto Sea Source Scorched Earth e basta, perché aveva comunque tre carte in mano e non abbastanza soldi per poter vincere. Wow, è stata forse la mia vittoria più veloce in assoluto di secondo turno. Lui ci è rimasto, diciamo, abbastanza basito, e io in effetti sono rimasto basito dal suo mazzo, che è veramente veloce, Grindle che rusha ma anche che può minacciarti con la Scorched. Quindi boh, è andata bene come è andata, vediamo come andiamo con il terzo turno. Un terzo turno andato molto liscio, vinco tranquillamente con doppio Scorched dopo alcuni round, perché l'avversario va sotto di crediti e per recuperare cerca di fare una dirty laundry, e quindi si becca le due scorce. Come Noise millo tantissimo finché a un certo punto non entro in archivi, ero contro Ne, ma gli ho millato a sufficienza da rendere il mazzo abbastanza disomogeneo per non permettere a lui di fare né soldi né astroscriptare a go-go. Ok, quarto round è andata un pochettino più, è stata ancora un pochettino più difficile. Ho vinto di Scorched al quasi quando stavo per perdere di Decking, perché l'altro aveva una plus crit, però si era preso talmente tante tag dai miei restructure data pool che non se le toglieva più. Ho aspettato che arrivasse la terza Scorched in mano e gli ho fatto triplo Scorched. Come runner invece Virus non ce l'ha, il Noise non ce l'ha fatta, e perché fondamentalmente girava come doveva girare, però due Lotus mi hanno completamente impedito di accedere sia a R&D che ad archivi. Stavo aspettando che arrivasse Hades Shard, ma è arrivato prima il Biotic per lui e mi ha scorato una napt come ultima agenda. Complessivamente ho fatto 12 punti e sono soddisfatto, anche se sono arrivato secondo. E ha vinto giustamente Guaina, che è un ottimo giocatore, e le ha vinte tutte tranne una contro di me. Conclusioni finali. Sono qui a casa dopo che il torneo è finito. Il mazzo NBN è veramente una forza, non ne ho persa una, nemmeno contro il Guaina, che dicono tutti sia l'uomo da battere insieme a Black Pix. Quindi sono molto soddisfatto di come ha performato, perché è veramente affidabile, nel senso che tutte le carte collaborano per fare un'unica cosa, ovvero scorciarti prima possibile, e nel caso in cui vengano giù le plus crit, creare una situazione tale per cui io ti riesca o a fare tanti Scorched Earth in un unico turno, oppure comunque il mazzo sia in una situazione tale per cui non sai dove rannare, perché dove ranni male. Detto questo, chiaramente l'MVP del mio mazzo di questa volta dell'NBN è sicuramente Mother Goddess, la quale mi ha salvato da un accesso su un remoto, non c'erano altri ice rezzati e quello era impossibile da breccare se non con un icebreaker AI, quindi sicuramente si è preso il badge di carta nuova che prima non c'era nel mazzo, che ha fatto il suo lavoro. Per quanto riguarda invece Noise, sicuramente ho sofferto molto l'impossibilità di andarmi a cercare i virus, visto che non avevo messo i gin, cosa che invece farò assolutamente. È un mazzo molto particolare perché è un mazzo pensato per millare veramente tanto. Non ho sofferto quasi mai contro Ne, perché contro Ne lui deve scorrare comunque 8 punti, cioè vabbè 4 agende per riuscire a vincere, e quindi mi dà il tempo per potergli, per poter generare il motore e poter andare a millare a sufficienza affinché lui non abbia la possibilità di far girare il mazzo come deve. Ho sofferto veramente molto il mazzo Grindle di Guaina, sia perché Guaina è un ottimo giocatore, sia perché è veramente velocissimo. Ha cominciato a scorare le agende già dal terzo turno e non c'è stata storia. Poi in più, considerato che Guaina gioca anche Noise, quindi conosce perfettamente quali sono le sue peculiarità e le sue debolezze, mi ha messo subito sotto pressione cominciando a scorare da presto e non ho saputo rispondere. Per quanto riguarda Noise, devo dire che effettivamente è veramente un po' casuale. Non a caso ho vinto 2 partite, ne ho perse 2 su 4 turni complessivi. Sono contento di come è andato il torneo, perché comunque un secondo posto mi fa piacere, però sicuramente ai prossimi tornei ci penserò 2 volte prima di portare Noise, perché la sua affidabilità è un po' bassa, soprattutto nella mia versione del mazzo, che è una versione molto, molto estrema, dove si giocano troppi virus da uno, tipo Lamprey o tipo Gormandrip, e probabilmente sacrificando quindi il multi accesso con i medium e il multi accesso con i nerve agent, non facendo la dovuta pressione. Quindi ecco, ascoltando bene le parole del Guaina, che a quanto pare ne sa a pacchi, lui il Noise lo gioca veramente molto aggressivo, addirittura non mette gli Sure Gamble, perché ha visto che raramente riesce a essere al punto tale da poter avere i soldi per avere gli Sure Gamble, e quindi mette i Dirty Laundry a sopperire questa mancanza e i Daily Cast. Scelta veramente azzardata, però effettivamente, visto che il suo mazzo non ha mai perso se non contro di me durante il torneo, direi che sicuramente è valida. Lui gioca sicuramente i gin, gioca un medium, un nerve agent, e va molto molto aggressivo su praticamente ovunque, perché archivi R&D e HQ, quindi sì, sicuramente è il mazzo da giocare, cioè è il Noise da giocare. Così va giocato Noise. Sappiamo che questa versione che ho portato io con i massi stall super aggressiva sul milling non va. Chissà se magari con le nuove carte arriverà una versione così passiva, che poi alla fine è anche non particolarmente divertente a giocare, perché è un po' un solitario, ti fai i cazzi tuoi, mentre l'altro soffre nel vedersi scartare le carte, ma ha tutta la tranquillità e tutto il tempo per potersi setappare e cominciare a scorare velocemente. Niente, con questo concludo il torneo. Ci siamo divertiti tutti tanto, non ha avuto intoppi di nessun tipo, se non è andata via la luce a un certo momento, abbiamo dovuto reinserire tutte le iscrizioni, non era a torneo in corso, quindi non ha dato fastidio. Grazie per l'ascolto e ci vediamo la prossima volta su Medium, sempre su queste frequenze. Un ringraziamento a tutti e un saluto, ciao. I've seen things you people wouldn't believe. Maintenance mode turned on. Jack out.